Una delle massime fondamentali della vera scienza occulta è che chi vi si dedichi lo faccia con piena coscienza. Nulla deve intraprendere o praticare di cui non conosca l'effetto. L'occultista che dà al discepolo un consiglio o un'istruzione gli darà al tempo stesso l'effetto che l'eseguirlo potrà produrre nel corpo, nell'anima o nello spirito di chi aspira alla conoscenza superiore. Qui diremo di alcuni degli effetti sull'anima del discepolo dell'occultismo. Solo chi conosce le cose che verranno ora comunicate può iniziare con piena coscienza gli esercizi che conducono alla conoscenza dei mondi soprasensibili. Soltanto così egli può essere un vero discepolo dell'occultismo. Ogni brancolare nel buio è severamente proibito nella vera disciplina occulta. Chi non vuole compiere la sua scuola con gli occhi aperti potrà diventare medium. Alla vera chiaroveggenza, nel senso della scienza occulta, non potrà arrivare. In chi segue in questo senso gli esercizi descritti nei video precedenti, sull'acquisto delle conoscenze superiori, avvengono anzitutto certe modificazioni del cosiddetto organismo animico che può essere percepito soltanto dal chiaroveggente. Lo si può paragonare ad una nube animico-spirituale più o meno luminosa in mezzo alla quale si trova il corpo fisico. In questo organismo gli istinti, i desideri, le passioni, le rappresentazioni e così via diventano spiritualmente visibili. Per esempio, i desideri dei sensi si palesano come irradiazioni rossicce scure di una determinata forma. Un pensiero puro, nobile, si esprime con una irradiazione viola rossiccia. Il concetto preciso di un pensatore logico si presenta come una figura giallastra a contorni ben determinati. Il pensiero confuso di una testa disordinata si manifesta come una figura con contorni incerti. I pensieri di persone con opinioni unilaterali e ristrette appaiono con contorni duri, immobili. Quelli di persone che sono accessibili alle opinioni altrui hanno contorni mobili che si trasformano e così via. Quanto più il discepolo progredisce nell'evoluzione della sua anima, tanto più il suo organismo animico si struttura regolarmente. Nell'uomo, la cui vita animica non è sviluppata, esso è confuso, non strutturato. Però, anche in un organismo animico non strutturato, il chiaroveggente può percepire una figura che emerge chiaramente da ciò che la circonda. Essa si estende dall'interno della testa fino alla metà del corpo fisico. Si palesa come una specie di corpo indipendente dotato di determinati organi. Gli organi, di cui ora si parlerà, vengono percepiti spiritualmente nella vicinanza delle seguenti parti del corpo fisico. Il primo, fra gli occhi. Il secondo, vicino alla laringe. Il terzo, nei pressi del cuore. Il quarto, vicino alla cosiddetta bocca dello stomaco. Il quinto e sesto risiedono nell'addome. Queste figure vengono dall'occultista chiamate ruote, chakras o anche fiori di loto. Sono così denominate per la loro somiglianza con le ruote o i fiori. Bisogna però rendersi chiaramente conto che tali espressioni sono altrettanto poco esatte quanto la denominazione di ali che si è solito applicare alle parti di un palazzo. Come in quest'ultimo caso, si sa che non si tratta di ali, così anche nel primo ci si deve ricordare che quelle espressioni sono adoperate figurativamente. Nell'uomo non evoluto, i fiori di loto sono di colore oscuro e sono fermi, senza movimento. Nel chiaroveggente sono invece in movimento ed hanno sfumature luminose di colori. Anche nel medium succede qualcosa di simile, ma in modo diverso. Non daremo qui altre spiegazioni in proposito. Quando dunque un discepolo dell'occultismo inizia i suoi esercizi, succede anzitutto che i fiori di loto si schiariscono e più tardi cominciano a ruotare. Quando ciò avviene, incomincia la capacità della chiaroveggenza. Questi fiori sono infatti gli organi sensori dell'anima. La loro rotazione significa che ora si percepisce nel soprasensibile. Nessuno può vedere qualcosa di soprasensibile prima che i suoi sensi astrali si siano in tal modo sviluppati.